America 24 di Mario Platero. Now it's Greece's turn, but this is actually a crisis area. You know, Greece is on the watch. Will they make it or not? Buongiorno a tutti, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. La voce che avete ascoltato è di George Soros, un grande finanziere americano, per alcuni un grande speculatore che spesso mette in difficoltà governi e aziende con le sue operazioni. Per la terza volta di fila apriamo la settimana con la problematica euro, Grecia, altri paesi deboli in Europa, perché la situazione continua ad essere instabile e perché George Soros, insieme ad altri investitori, è stato al centro di una iniziativa che potrebbe di nuovo esercitare forti pressioni sull'euro. Secondo questo gruppo, il rapporto fra dollaro ed euro potrebbe scendere addirittura alla parità 1-1. Using these instruments in a way that intentionally destabilizes a company or a country is counterproductive. Questa invece è la voce di Ben Bernanke, il governatore della Federal Reserve. Ammette, sottolinea, dice che certi strumenti speculativi possono destabilizzare aziende e governi. Tocca ai governi, ai centrali, soprattutto alle autorità monetarie centrali, di ostacolare gli speculatori in questi loro tentativi di manovrare nei mercati internazionali, perché certi pronostici si verificano. Ecco, c'è stata una cena a New York l'8 di febbraio alla quale hanno partecipato vari hedge fund managers, vari finanzieri, tra cui appunto lo stesso fondo Soros, una cena offerta da Monness Crespi Hard, che è una brokerage firm, una società di intermediazione molto piccola sulla quale si appoggiano varie altre istituzioni finanziarie. C'erano anche Greenlight, c'era anche il fondo di Paulson. Il fondo di Soros ha 27 miliardi di dollari, quello di Paulson ne ha 34. Ebbene, è stato durante questa cena, e quindi parliamo ormai di circa 3 settimane fa, che questi finanzieri hanno escogitato una strategia. È legale, è giusto che si siano incontrati, non è contro le buone regole della concorrenza leale. Ebbene, abbiamo interpellato qui a New York alcuni operatori e sembra di no, perché non è che hanno coordinato delle operazioni di attacco, si sono semplicemente incontrati per scambiarsi delle idee. La verità è che da quella cena in avanti, in effetti, l'attacco sull'euro è stato molto più violento. Vediamo che cosa è successo dal dicembre, quando l'euro era a quota 1,51 sul dollaro, e adesso invece il rapporto è a 1,35. Ma c'è qualcosa di più. Le probabilità che il rapporto dollaro-euro vada in parità erano 33-1 nel dicembre scorso. Oggi sono addirittura scese a 14-1. È chiaro, ancora non ci si crede, non si ritiene che sia possibile, ma la manovra è in corso. Io credo che sia essenziale, fondamentale, che le autorità monetarie questa volta intervengano in modo deciso. Sono state attività speculative coordinate molto simili a quelle che stiamo vedendo adesso sul campo, sul teatro europeo, ad aver messo in ginocchio istituzioni finanziarie come Lehman Brothers, come Merrill Lynch, come AIG. E voglio dirvi, sono stati alcuni degli stessi protagonisti che oggi attaccano l'euro ad aver attaccato quelle stesse aziende e ad essere usciti da quelle operazioni con straordinari guadagni. George Soros poi ha un passato inquietante dal nostro punto di vista, perché nel 92 da solo riuscì a mettere in ginocchio il sistema monetario europeo, puntò soprattutto sul marco, riuscì a vincere. Ricordo come allora la Banca Centrale Italiana, quella di Francia e quella d'Inghilterra cercavano di intervenire sul mercato per far sì che le loro monete mantenessero la parità nei confronti del marco tedesco, non ci riuscirono, furono investiti, spesi e sprecati decine e decine di miliardi di dollari. dollari in riserva. Ebbene, io credo che se dalla lezione del 92 non si è imparato niente e se da quella della crisi del 2007-2008, soprattutto di quel settembre 2008, non si è imparato niente, beh, è davvero drammatico. Credo che a questo punto le autorità debbano intervenire fermamente per impedire che dei finanzieri possano indebitarsi a 20 a 1 e dunque organizzare delle operazioni speculative che inevitabilmente portano degli attacchi massicci su queste valute che poi diventano, in questo caso l'euro, diventano indifendibili. Cambiamo argomento, passiamo a qualcosa di più leggero. Il 7 di marzo ci saranno i premi Oscar. Abbiamo incontrato a New York Sandra Bullock. Hi Mario, nice to meet you. Very nice to meet you. You're from Italy. Il film di Sandra Bullock, On the Blind Side, è costato solo 35 milioni di dollari, ma ne ha già guadagnati quasi 250 milioni. In 20 anni di carriera non era mai stata candidata agli Oscar. Ebbene, ci tiene davvero moltissimo. I got the land. You just find those little vines and stick them in there. It's inland. Sandra parla di terra, parla di ambiente, cerca di darsi un'immagine più intellettuale di quella che emerge dal film, l'immagine di una madre di una famiglia bianca del sud che decide di adottare un ragazzino nero, il quale poi diventa un campione di football, una storia a lieto fine e strappa lacrime. La concorrente più diretta di Sandra Bullock è Meryl Streep, decisamente più intellettuale, ha vinto già 2 Oscar, ha avuto addirittura 16 candidature ed è candidata come miglior attrice per Julie e Giulia. La Bullock certamente cerca di promuovere se stessa, devo dire però che è apparsa veramente molto carina, simpatica, naturale, spontanea, crede in questa sua iniziativa e dunque non è soltanto un trucco di marketing. Riuscirà a prendere l'Oscar? Beh, lo speriamo per lei, lo merita, in questa sua lunga carriera non ha mai avuto una nomination e dunque forse il premio è più dovuto a lei che a Meryl Streep, che ne ha vinti 2 e che ha avuto addirittura 16 nomination. È soltanto febbraio, c'è ancora molto tempo per decidere. Andrew Cuomo prende tempo, ma resta lui il candidato numero 1 per diventare governatore di New York dopo che David Paterson si è ritirato alla fine della settimana scorsa. Ricordiamolo, una candidatura dinastica, in quanto Andrew Cuomo è figlio di Mario Cuomo, che già fu governatore per 2 mandati. Ci sarebbero 1000 altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarle su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. La dedichiamo a Bruce Springsteen, perché ha stabilito un record, è il cantante americano che ha guadagnato di più nel 2009, 57 milioni di dollari. È vero, gli U2 sarebbero al primo posto con 108 milioni di dollari, ma se li devono dividere. Ascoltiamo di Springsteen, Born in the USA. Born down in a dead man's town. The first kick that took us when I hit the ground. End up like a dog that's been beat too much till you spend half your life just to cover it up now. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA.